dispiace di svegliarti. Forse un uomo non sa, ma ad un tratto so che devo lasciarti. Fra un minuto me ne andrò e non dici una parola. Sei più piccola che mai, in silenzio morderai le lenzuola. So che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare. La sua mano dolcemente cerca me e nel sonno sta abbracciando pian piano il suo uomo che non c'è. Mi dispiace, devo andare. La tua porta è...